piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ci sono risultato positivo al tampone, sì. Nel mio piccolo contesto di medicina di gruppo, dove operiamo in 4 colleghi, 2 sono risultati al tampone ed un terzo ci si è sottoposto la mattina di sabato. Ogni giorno, oggigiorno, si sente di colleghi di medici di famiglia che decedono. Reperire delle mascherine idonee, reperire delle occhiali idonei, reperire delle tute idonee è diventato col tempo sempre più difficile e impegnativo. Come medici di famiglia, se non veniamo tutelati, rischiamo di essere noi stessi vettore di infezione, questo è sicuro. Oggi, come ho annunciato poco fa al giornale radio, parliamo dei medici. Abbiamo toccato un po' varie categorie, fra quelle più in prima linea in questo momento nel tentativo di arginare, contenere, provvedere comunque a chi abbia dei problemi per il coronavirus, che sta diventando un problema sinceramente condiviso da tutti. E spero sempre con maggiore coscienza del fatto che i nostri comportamenti individuali incidono fortemente, anche si riverberano nel problema della salute generale delle altre persone. E in particolare questa mattina vorrei ricordare che la Spoon River dei medici deceduti oggi ha 44 fotografie nel sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ci sono le foto dei medici morti, sono 44, sono tanti, ma poi le notizie che ci arrivano da varie parti del paese è di un numero grosso di focolai, comunque di persone contagiate, proprio in ambiente nosocomico, negli ospedali, laddove è più facile entrare in contatto con le persone infette, dove è più facile che persone che non necessariamente si sono occupati di virus per tutta la loro carriera professionale, ma sono comandati di occuparsi di malati di Covid-19, perché sono quelli che arrivano con maggiore numerosità nei luoghi appunto di cura. Ma non soltanto queste persone, che non sempre, anzi nella maggior parte dei casi, non hanno i presidi sanitari necessari per affrontare un malato o una persona infetta di Covid-19, richiedono tamponi, richiedono presidi medici, ma anche i medici di famiglia. Non dimentichiamo, i medici di famiglia sono stati i primi a entrare in contatto con le persone infette, le prime persone a cui ci si rivolgeva quando si aveva un problema. Magari molti andavano nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia. E ancora non era ben chiaro, non c'erano indicazioni precise su cosa fosse, di cosa si trattasse, quali fossero esattamente le dinamiche del contagio. E quindi i medici erano in prima linea, sono in prima linea e soprattutto adesso sono la forza d'urto che per noi è fondamentale, indispensabile. Senza medici come potremmo fare? A chi ci rivolgeremo? Chi si occupa delle persone malate? Quindi, se posso fare una raccomandazione, non è da me fare appelli o chiedere alle persone comportamenti retti o corretti, ma attenzione, ogni nostra stupidaggine, ogni nostra furbata nell'uscire da quelle che sono le regole generali, ogni scusa del giretto non necessario con il cane, della spesa non necessaria nel paese vicino, della corsetta non necessaria, della passeggiata non necessaria, si riverbera poi per le persone che sono in prima linea. E a morire in questo momento sono i medici, e quelli a avere più problemi sono i medici, sono persone che hanno famiglia, poi tornano a casa e poi hanno familiari, hanno figli, hanno mogli, frequentano altre persone. Immaginate cos'è questa mattina in chi mi ascolta la particolare apprensione in chi ha un medico in famiglia, un figlio medico, un genitore medico, un parente medico. E queste sono le persone a cui chiedo questa mattina di chiamare all'800240024, perché questa è la loro trasmissione. Roberto Monaco, buongiorno. Buongiorno. Roberto Monaco è segretario della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ho letto ieri l'altro il loro appello, le loro richieste sono molto precise, ma molto spesso è difficile che le loro voci vengano prese tutte in considerazione. Se dovessimo sintetizzare in pochi termini quelle che sono le urgenze più forti in questo momento? A cosa dovremmo riferirci? Beh, innanzitutto, dottor Nicoletti, io voglio ringraziarla perché la sua voce composta ma decisa è veramente importante in un panorama dove tutti urlano e si capisce poco. E, sì, le cose da dire sarebbero tante, ma sicuramente è importante dare priorità a tutelare chi tutela, perché il fatto dei balconi che applaudono i medici e a noi dà una forza grandissima, e molto, la sentiamo davvero come un grande abbraccio virtuale nei confronti della professione. Quello che ci aspettiamo però è una tutela da parte di chi ci governa e chi deve dare la possibilità di poter effettuare un nostro lavoro non da eroi ma da professionisti che hanno studiato per poter dare la propria competenza ad un paese, soprattutto in un momento così difficile. Sì, ne faremo tutti a meno volentieri di avere eroi, preferiremmo avere medici vivi e in buona salute, sinceramente. Perché vogliamo essere eroi, ma vogliamo essere vivi. Per essere vivi abbiamo bisogno di protezioni. 44 colleghi che non ci sono più, per noi è veramente una sofferenza. Abbiamo messo le bandiere a mezz'asta, abbiamo messo il lutto nel nostro sito, vorremmo dire basta, perché sono professionisti che con compassione hanno lasciato la vita sul campo. Noi quello che chiediamo sono le protezioni, semplicemente le protezioni per poter fare bene il nostro lavoro. Per protezione si intendano soprattutto le mascherine. Non ha senso mandare. Ma sa, Roberto, dottor Monaco, trovo paradossale. Guardi, io sono 10 giorni, 15 giorni quasi, che parliamo tutti i giorni, dando evidenza e voce a categorie professionali particolarmente esposte. Che ancora in Italia si parli delle mascherine come di un problema, io trovo veramente un paradosso. Veramente un paradosso. Com'è possibile che comunque sia ci sia ancora per gli operatori sanitari, per i medici, il problema di avere una mascherina? Chi è che dovrebbe darvele? Da dove dovrebbero venire? Io vedo che in Italia si stanno anche attrezzando per fabbricarle varie aziende. Come mai non c'è questa sorta di attenzione di dare innanzitutto gli strumenti a chi è in prima linea? Gli strumenti di salvaguardia dovrebbero essere dati alle persone che stanno salvando le vite in questo momento. Ma senta, noi in questo momento non abbiamo nemmeno il tempo di... in un certo senso di andare a cercare i colpevoli. Noi chiediamo aiuto. No, ma non chiedo colpevoli, ma chi potrebbe in realtà occuparsene? Sono le regioni, sicuramente, le aziende, il governo, però vediamo da parte di tutti uno sforzo incredibile, cioè non è che penso che il governo non stia lavorando, perché il ministro Speranza è stato sempre attento e vicino a noi. E noi lo sentiamo quotidianamente. E il problema è che non c'è l'approvvigionamento, è difficile, chiaramente adesso ancora di più, perché visto che gli altri paesi cominciano ad avere il nostro problema, chiaramente è difficile anche il passare le dogane e quant'altro. Ora per fortuna anche in Italia si cominciano a fare, però sulle mascherine quello che bisogna fare anche un po' di informazione, cioè vedere delle persone che camminano per strada con le mascherine con la valvola, con le mascherine di grande protezione come possono essere le FFP2 o le FFP3 per in termini tecnici. Sì, io vedo signora al supermercato fare la spesa con la FFP3, che mi sembra ridicolo, e fra l'altro mettono a rischio le persone che stanno attorno, perché è la mascherina a cui esce poi il fiato. Perfettamente, lei ha centrato proprio il problema. Cioè fare andare un medico contro il virus con una mascherina chirurgica, mentre una persona che ha la mascherina FFP3 con la valvola che emette nell'aria il virus, se fosse positivo, proprio è quanto di più sbagliato ci potrebbe. Sì, per lei, Roberto Monaco, come abbiamo detto mille volte, diciamo, non è che perché è più figa, più forte e c'ha i tappettini rossi salvaguarda di più e è meglio quella che l'altra. Non serve niente una persona che vada per strada, quella è una mascherina fatta per chi sta a contatto a una persona infetta, quindi già è davanti a un caso di infezione. Per voi che andate per strada, il vostro fiato comunque appesta gli altri, detto in parole molto brutali, o sbaglio? Certo, perfettamente. L'importante è che chi ha un problema metta la mascherina. Ecco, la mascherina. Quante ne servirebbero a un medico di media durante il giorno? Perché non ci rendiamo conto. Ieri ho sentito cifre che in Lombardia servirebbero non so quanti milioni di mascherine al giorno. Quante ne serve a un medico che è operativo per il turno in cui opera, che penso sia anche un tempo abbastanza dilatato? Ma dipende che tipi di pazienti incontra, perché se incontra un percorso prettamente Covid ne può utilizzare una o due al giorno. Se invece passa da un paziente sicuramente Covid ad uno che non è detto che ce l'abbia, deve cambiare più volte la mascherina, quindi è in base ai percorsi. Per fortuna adesso si sta lavorando sui percorsi Covid e non Covid. Il problema è che noi abbiamo chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di darci una mano in questo senso, di poter fare in modo che tutti quelli che vengono in contatto con pazienti Covid abbiano delle protezioni di alto livello. Ecco, io vorrei entrare un pochino più nello specifico con lei. Vediamo, da quello che mi sono guardato, un po' studiato, quando si parla del famoso sistema coreano, tutti pensano che ci si limiti semplicemente al tracciamento attraverso gli smartphone, e questo esalta tante persone, spaventa tante altre, ma in realtà loro avevano un piano che era stato già, diciamo, messo a punto nel 2015, che hanno avuto già un episodio simile, in cui, diciamo, il personale sanitario viene considerato come dei soldati in prima linea. Innanzitutto è brutale dirlo, vivono in un ambiente separato dall'ambiente familiare, quindi ci sono delle strutture che accolgono medici e personale ospedaliero, non li mettono assolutamente più in contatto con le famiglie, ma soprattutto c'è una fascia intermedia di operatori sanitari che si occupa e formata in maniera specifica per i sistemi di sicurezza, cioè sono quelli che li vestono, li svestono, e poi c'è un monitoraggio in più anche sulla tenuta delle persone, perché nel momento, nella fase dell'adrenalina in cui ci si sente eroi, è anche facile, è possibile che si vada oltre le possibilità umane, poi cominciano i crolli. Non dimentichiamo che i casi di suicidio, non voglio creare dei motivi di causa effetto, sarebbe brutale, sarebbe anche sommario. Però tutto questo sistema, il sistema coreano, fa parte di questo, fa parte di un'organizzazione specifica che è a tutela e sostegno della classe medica e della classe infermieristica. In Italia c'è un piano simile, si presuppone un piano simile, perché io vedo nei nostri terminali, a gente che ci scrive, soprattutto familiari di medici, dicono: ma mio marito, mio padre, mio fratello, la persona con cui sto assieme, mi chiede, io non torno più a casa, vorrei andare in un albergo per evitare poi di portarmi il problema in famiglia. È un azzardato quello che sto dicendo io, o già comunque nei vostri pensieri? No, è nei nostri pensieri, e siamo pienamente d'accordo con lei, dottor Nicoletti. Allora, il problema è che bisogna fare in modo che ci sia veramente quella che viene chiamata integrazione ospedale-territorio. E in questa situazione il territorio è fondamentale, perché il medico di medicina generale, la continuità assistenziale, e le famose USCA, che sarebbero l'unità speciale di continuità assistenziale, che abbiamo concertato anche con il ministro, il 118, sono dei presidi, delle barriere importantissime per evitare che i contagi aumentino da una parte, dall'altra parte per evitare che gente in più e a volte in maniera inappropriata possa andare in ospedale. Quindi è una battaglia che si vince se il territorio funziona bene, e per farlo funzionare bene devono essere i primi ad essere garantiti nella protezione. E tanto è vero, l'ha detto lei prima durante il collegamento, prima di che mi intervenissi io, tanti medici di famiglia purtroppo non ci sono più. E poi far funzionare l'ospedale. Mi sembra di vedere che proprio tristemente, statisticamente, fra le vittime molti sono medici famiglia, perché ancora non c'erano nemmeno delle direttive generali, un protocollo condiviso ovunque, ognuno un pochino faceva quello che era secondo l'istinto, e i primi a ricevere, le prime persone infettate, sono stati i medici di famiglia. Ma in alcune zone d'Italia ancora non hanno nemmeno adesso le mascherine. Noi ci stiamo battendo per questo, perché è inconcepibile mandare senza armi contro una guerra, contro un nemico invisibile, le persone, perché prima che professionisti siamo persone, perché quelle 44 persone che non ci sono più hanno una storia, hanno una famiglia, lasciano dei bambini piccoli, lasciano degli affetti, e siamo cittadini dello Stato, quindi vorremmo essere tutelati in questo senso. Ecco, io vorrei tirare fuori anche un altro argomento. Cercheremo poi conferma, mi stanno arrivando comunicazioni, poche telefonate, devo dire, chiedo agli ascoltatori 800 24 00 24, possibile che chi mi ascolta in questo momento non ha un medico in famiglia e non si pone il problema. Mi piacerebbe sapere come vivono la condizione familiare le persone che comunque hanno dei medici. Si è passati da una condizione di sicurezza, tranquillità, serenità, un medico in famiglia è sempre stato un grande motivo di sicurezza per la famiglia, ma in questo momento diventa al contrario un motivo di apprensione ulteriore. Si parla di ospedali in cui reparti non necessariamente Covid sono stati obbligati dalla circostanza a occuparsi anche di pazienti di Covid, e quindi maggior ragione non avevano le protezioni necessarie che non vengono date a chi non si occupa di Covid, quindi medici con mascherine di carta che si occupano di pazienti di Covid. Mi si dice, leggo la notizia, che c'è un ospedale a Teramo, in Abruzzo, l'ospedale Mazzini, dove ci sono 40 casi di sanitari contagiati, e erano sanitari anche di reparti non Covid che non hanno nessun tipo di protezione. Abbiamo provato a chiamare qualche medico, mi hanno detto, gli hanno fatto firmare un documento che non devono dire nulla. Mi sembra possibile questo, che non possano nemmeno esserci informazioni su quello che sta accadendo? È tutto paradossale. Ci sono oltre 6.000 sanitari contagiati in tutta Italia ed è difficoltoso per le persone che chiaramente devono cercare tutti i giorni e tutte le notti di dare risposte per tutelare la salute dei nostri pazienti, e dall'altra parte hanno il pensiero di quando si torna a casa di poter essere positivi senza nemmeno saperlo. Ma lo trovo che è troppo drastico, diciamo, l'applicazione del sistema coreano, cioè creare proprio una prima linea, come fosse la prima linea proprio di un esercito che sta combattendo, in cui chi si occupa specificamente di malati coronavirus a questo punto viene considerato come un soldato in prima linea, quindi non torna più a casa. È troppo drastica, è una richiesta esagerata? No, o questo dovrà accadere? No, non è troppo drastico, anche se di fatto accade, perché ci sono medici che continuamente rimangono in ospedale al di fuori dell'orario. Sì, ma invece che dormire per terra, dormire dentro la macchina, come mi hanno detto che succede, abbiano almeno degli alberghi attrezzati e messi in sicurezza con qualcuno che si occupa anche della loro vita, perché devono stare anche in salute. Ci fermiamo solo un istante, devo dare la linea, abbiamo già un ascoltatore, ci chiama Stefano, provincia di Roma, gli dico di aspettare solo 30 secondi, continuiamo. A seguito dei casi di positività registrati tra gli operatori sanitari dell'ospedale Mazzini di Teramo, il sindaco D'Alberto ha chiesto un affiancamento all'attuale dirigenza ASL, un esperto scientifico che sappia indirizzare l'orientamento da prendere in questi casi. Una richiesta su cui il direttore generale facente funzioni, Maurizio Di Giosia, non ha ancora risposto. Quello dei tamponi appare sempre più un nodo da sciogliere sotto diversi aspetti. Quello più evidente riguarda il personale che lavora negli ospedali. Da più parti si chiede che tutti vengono sottoposti al test. Infatti si sta allargando il numero di positivi. Il problema è che coloro che sono stati a contatto con i positivi, fino a quando non arriva il verdetto che li riguarda, spesso passano giorni, vanno ancora a lavorare, diventando potenzialmente anche loro veicolo di infezione. Questa è la situazione dell'ospedale di Teramo, di cui vi avevo parlato, in cui ci dicono ci siano grossi problemi. Abbiamo cercato di parlare con qualche sanitario, ci hanno detto che hanno fatto firmare a tutti i sanitari un foglio in cui si impegnano a non dire quello che sta succedendo, così almeno ci è stato detto, se no ci sarebbe piaciuto capire se sta succedendo una situazione, cioè una situazione che è abbastanza emblematica e significativa per quello che sta succedendo in molti ospedali. Medici di reparti che non sono necessariamente attrezzati o specifici per la loro vocazione professionale occuparsi del Covid-19 se ne stanno occupando senza nessun tipo di presidio per potersene occupare, e naturalmente crescono le infezioni, e quando crescono i contagi nel reparto oncologico ad esempio comincia a essere preoccupante, perché lì ci sono pazienti con problemi molto gravi. La notizia di questi ultimi minuti è che anche il premier britannico, il primo ministro britannico Boris Johnson, è risultato positivo al coronavirus, è in autoisolamento. Ricordiamo che era stato quello che aveva detto che si sarebbe contato sull'immunità di gregge nel Regno Unito, addirittura all'università aveva anche detto si stava creando l'immunità di gregge. Per fortuna abbiamo persone, clinici come Burioni, che ci ha spiegato che senza vaccino non esiste immunità di gregge. Tra l'altro nel Regno Unito ci sono varie notizie, il principe Filippo è contagiato, parla anche il principe consorte, qualcuno addirittura gira la leggenda metropolitana, sia morto da giorni non lo possono dire. Su questo naturalmente non c'è nessuna conferma, però mi sembra fortemente colpito un posto dove in realtà sembra che siano un passo indietro rispetto a quello che sono le norme di sicurezza che sta condividendo il resto del mondo. Abbiamo alcuni ascoltatori, finalmente chiama qualche ascoltatore, come se il problema di oggi non riguardasse che soltanto le famiglie dei medici. Roberto, provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. La situazione è drammatica qui nel ponente savonese, ma la mia testimonianza era volta a dire questo, che noi siamo emotivamente coinvolti dalle famiglie, delle persone che ci telefonano quotidianamente. Io ricevo telefonate dalle 7 alle 23, ricevo messaggi disperati, mi faccio sapere qualcosa dei miei familiari. Io ho perso due pazienti, ci sono diversi ricoverati in rianimazione. In zona gialla, che è una zona intermedia. Roberto, ci deve dire però cosa fa lei, sennò tutte non capisco. Le persone che mi chiedono informazioni e noi siamo stati lasciati soli, ma non ma soli, voi chi, Roberto? Tra di noi siamo uniti, siamo segnalate, siamo a Roberto veramente... in qualche maniera che dovrebbe interloquire con me, sennò se parla non mi ascolta. Mi sente, Roberto? Ecco, certamente. Ci dice lei chi è, perché sennò non capiamo. La chiama sono chi? Sono un medico di famiglia. Sono ecco, medico di se, famiglia. Non dice, se non lo dice chiedo come scusa. Promessa, non capiva. Dunque, lei è un medico di famiglia della provincia di Savona. Esatto. Allora, ci raccontava la situazione, la riassuma velocemente. Scusi, ma allora, se dal 23 c'era di quella premessa, febbraio, non capivamo. Io mi sono riunito con i miei colleghi, con i quali sì. Condivido lo studio, l'attività giornaliera, e abbiamo deciso di adottare delle misure di sicurezza per l'accesso al nostro ambulatorio medico, però non abbiamo mai ricevuto né mascherine né guanti né tantomeno camici monouso. Siamo stati costretti a lavorare, come lei diceva prima, senza nessun'arma per contrastare il Covid-19. Molti dei nostri colleghi purtroppo sono stati colpiti, non in questa zona, io ho due colleghi ricoverati in ospedale, però non medici di famiglia ma medici ospedalieri. In ogni caso davvero siamo stati lasciati soli, e solo la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ci ha dato sostegno morale e materiale, per il resto zero. Ecco, come vi siete organizzati dopo questa riunione che avete fatto? Perché il vostro è un esempio, ce ne saranno tantissimi corrispondenti. Vi siete visti voi medici di famiglia, organizziamoci da soli. Ecco, da dove è iniziata la vostra auto-organizzazione in mancanza di altro? 17 di domenica 23 febbraio abbiamo fatto una riunione interna e abbiamo deciso di contingentare l'accesso alle sale d'attesa, ridurre gli appuntamenti a uno ogni 30 minuti per evitare affollamento nelle sale d'attesa, e a cercare di aiutare il più possibile, sperando che venisse adottata quella famosa ricetta elettronica dematerializzata che era 9 anni che non era stata messa mai in atto. Dunque noi abbiamo proprio cercato di ridurre... Mi sembra che adesso dovrebbe funzionare la ricetta elettronica. Dica? Perlomeno è stato detto che ci si poteva far conto sulla ricetta elettronica per andare in farmacia con la prescrizione del medico di famiglia senza dover necessariamente fare la fila per farsi dare esatto. La ricetta rossa o bianca. È stata messa in atto grazie a un decreto d'urgenza che è stato messo in esecuzione nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Dopodiché noi ci siamo attivati chiamando, io l'ho fatto personalmente, chiamando uno ad uno i miei pazienti anziani, magari per farmi dare la loro posta elettronica, il loro numero di telefonino su cui poter inviare direttamente la ricetta che io prescrivevo. Lei dice una cosa corretta, bella la ricetta elettronica, siamo arrivati grazie al coronavirus, potevamo arrivarci anche 5, 6, 10 anni fa, ma un paziente medio, immagino nella provincia di Savona, anziano, come categoria a rischio più esposta, come fa lei a dirgli te la mando via posta elettronica, che magari non ha nemmeno una connessione internet a casa, se ha un telefonino ce l'ha probabilmente, non con tutte le funzionalità per scaricarsi il PDF della ricetta, come avete fatto? Ci deve essere un PDF che si può aprire con un numero di password che io comunico ad ogni persona, che è una password individuale. Ci sono ancora dei problemi con la privacy, in una fase di emergenza si sta cercando di ovviare con un figlio, per esempio, un figlio e una figlia che hanno la password e possono andare materialmente a ritirare il farmaco per l'anziano. È chiaro, altrimenti che... io mi stampo le ricette e gliele porto a casa in una busta chiusa e gliele metto nella buca delle lettere, poi si organizzeranno loro per ritirarle. Le sono grato adesso, Roberto, per la testimonianza completa. Stefano, provincia di Roma, anche lei è un medico, Stefano. Sì, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Innanzitutto mi permetta di rivolgere un saluto affettuoso ai miei ex colleghi ospedalieri. Io ero un anestesista rianimatore, ma telefono in doppia veste perché da quando sono in pensione sono un rappresentante locale del Tribunale dei diritti del malato, quindi doppia veste, cittadino utente ed ex medico ospedaliero. Allora, innanzitutto io ci tengo a sottolineare questa cosa, che quello che sta succedendo soprattutto nel nostro paese è il dato inequivocabile del fallimento e proprio dello sciacallaggio che è stato fatto sul sistema sanitario nazionale negli ultimi 30 anni e che noi medici abbiamo, io me lo ricordo perfettamente quando ero nel sindacato degli anestesisti, abbiamo mandato centinaia di relazioni sulla perdita di posti letto in terapia intensiva, sulle carenze di personale medico, infermieristico, eccetera, eccetera. Siamo rimasti inascoltati e questo è dovuto al fatto perché noi medici ci siamo fidati, forse ingenuamente, e abbiamo ceduto completamente la sanità al potere politico. Da quel momento è iniziato lo sciacallaggio sul sistema sanitario nazionale, tagli inauditi, anche purtroppo con la complicità dei media nazionali, che non hanno mai, cioè se ne sono ricordati adesso, che i posti letto erano 580.000 e sono diventati 180.000. che le terapie intensive, una volta c'era lo stesso rapporto che hanno in Germania, 8 posti letto di terapia intensiva per 1.000 abitanti, e adesso qui da noi, non dico il numero perché mi vergogno a dirlo. Lo dica, così ci dà un'informazione completa. Quindi, no, lo dica il numero, così ci dà un'informazione completa, visto che è informato, sennò... Vuole sapere il numero dei posti letto di terapia intensiva ogni 1.000 abitanti? Sì. Credo che si aggiri intorno ai 3 posti, diciamo che la media europea è 5, noi stiamo a 3, i tedeschi stanno ad 8, ma erano i numeri che noi avevamo 30 anni fa, anche come posti letto. Lei calcoli che nella nostra ASL, nell'ASL dove mi trovo io, i posti letto ospedalieri per acuti sono 0,9 per 1000, 0,9 per 1000 quando la media nazionale dovrebbe essere 3 e la media europea è molto più alta. Ha capito qual è il discorso? Io non voglio nemmeno dire... Penso che sono di gran lunga inferiore rispetto a quella che è la media delle persone che potrebbero essere contagiate da coronavirus, quindi figuriamoci, saranno sicuramente più persone contagiate, bisognose comunque anche di ricovero ospedaliero che di posti liberi, questo è scontato. Detto questo, fatta diciamo la debita critica sul passato, io direi che questo è il momento in realtà propositivo. Lei dal suo punto di vista, visto che è una persona informata, conosce i dati, conosce anche il problema, quale sarebbe l'operatività da poter mettere subito in campo per innanzitutto limitare l'emorragia di medici, perché i medici che stanno morendo è un problema grosso, forse non ci rendiamo abbastanza conto. Se si decima la classe medica, chi si occupa poi dei malati? Allora guardi, Io devo dire che quando ho iniziato la carriera ho iniziato dopo un anno di tirocinio, ho fatto i 6 anni di medicina e chirurgia, un tirocinio annuale di un anno in anestesia e rianimazione e poi sono entrato a lavorare. Quindi credo che si possano tranquillamente mettere dentro a lavorare gli specializzandi del quarto e del quinto anno, perché già hanno sulle spalle 4-5 anni di specializzazione. Noi la specializzazione poi la prendemmo nel corso della carriera, chi voleva fare carriera prendeva la specializzazione. Ci sono stati ad esempio tanti anestesisti che sono rimasti assistenti e facevano, lavoravano col solo tirocinio. È quello che più o meno, quello che più o meno sta già avvenendo. Io mi fermo un attimo con lei, devo dare la linea. Ci scrive il professor Andrea Rossetti, che è uno specializzato a una cattedra di informatica giuridica. C'è un'ordinanza alla Protezione Civile che prevede che in questo periodo si possa conferire il numero di ricetta elettronica anche per via telefonica. Si va in farmacia con un numero e la tessera sanitaria. Il farmacista dovrebbe dare le medicine, quindi il numero può essere dato anche al telefono, a voce, o via SMS o via WhatsApp, qualunque mezzo per comunicare questo numero. Quindi lo dico al medico di Savona, non è importante che lei porti la ricetta a mano ai suoi pazienti anziani, basta che gli dica al telefono scrivetevi questo numerino e con la loro tessera sanitaria in farmacia possono andare e avranno appunto il loro farmaco. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, questa mattina parliamo dei medici in prima linea, e chiedo, come sta già accadendo, che i medici che sono a casa, che sono in riposo in questo momento, che non sono operativi, ci chiamino e ci diano informazioni capillari soprattutto su quello che accade nel territorio nazionale, anche perché vediamo che da molti luoghi in cui ci sono delle criticità c'è una difficoltà, è come se ci fosse il desiderio di non far trapelare, di non parlare dei panni sporchi che vanno trattati in famiglia. Non è proprio il momento, anzi le criticità e le emergenze secondo me devono venire alla luce e vanno trattate come episodi che riguardano tutti. Ho al telefono adesso Guido Quici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente nazionale Federazione CIMO FESMED, che raggruppa circa 13.000 medici ospedalieri. L'ho tenuto al telefono perché volevo che anche lei ascoltasse la voce di alcuni suoi colleghi. Vediamo se riusciamo a dare una mappa delle emergenze in questo momento, senza creare degli allarmismi che sono inutili, però far capire esattamente cosa bisognerebbe fare in maniera anche drastica per salvaguardare innanzitutto la salute e l'integrità della classe medica. Mi sembra fondamentale. Ma guardi, noi ci troviamo in un contesto dove sinceramente è il fuoco che covava sotto la cenere, cioè una situazione sanitaria già precaria di per sé, perché dal 2000 ad oggi 72.000 posti letti in meno, 43.000 dipendenti, un tasso di... Quello che ha detto l'ascoltatore corrisponde a realtà, mi pare. Ma sì, l'unica cosa, magari le terapie intensive sono 5.100 e bisogna considerare che all'interno delle terapie intensive ci sono pazienti che sono affetti anche da altre patologie. Quindi una non c'è solo il coronavirus, c'è gente che ci stava appunto, per altri problemi, è chiaro. Appunto, sì. E questo crea un ulteriore problema perché naturalmente l'assistenza sanitaria agli altri pazienti deve avere ovviamente pari dignità rispetto al paziente affetto da coronavirus. Ora il discorso qual è? È che quando ci troviamo in questo contesto con un'autonomia regionale spinta al massimo, dove ogni regione ha la propria organizzazione, viene meno il nodo cruciale che è quello di una direttiva. Tant'è vero che i DPCM si stanno succedendo, sono ogni giorno e le cose tendono a complicarli. Ma non trova, scusi la interrompo, ma non sarebbe il momento in questo momento che il governo centrale si prenda in mano la responsabilità di tutto il territorio nazionale? Vediamo che ogni regione poi alla fine a estro si comporta a modo suo, ma le sembra corretto questo? Non dovrebbe esserci qualcuno che mette le palle sul tavolo, mi scusi il termine, dice da oggi c'è un'autorità supportata e confortata dal supporto scientifico di eccellenza che c'è nel nostro paese e decide per tutti? Ma proprio per questo è assolutamente fondamentale che ci sia una cabina di regia centrale che dia disposizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, anzi questo deve rappresentare un'opportunità per rivedere l'autonomia differenziata delle regioni nel prossimo futuro, però per il momento già con i dispositivi, già con i tamponi e tutto quello che ne consegue si lavora a marchio di leopardo. Le aziende sono troppo autoreferenziali, i direttori generali sono troppo autoreferenziali, e quello che ha detto lei per l'episodio di Teramo non mi meraviglia affatto, ma mica succede solo a Teramo. Ripeto, trovo paradossale generali, che si faccia firmare a dei medici un documento in cui non devono dire quello che sta succedendo. Sinceramente, da giornalista lo trovo paradossale. Sì, ma tra minacce velate, minacce concrete, le direzioni generali molto spesso si comportano in questo modo qui, e i colleghi ovviamente si trovano tra l'incudine e il mastello. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che poi si è creato un'esposizione al di sopra della norma per quanto riguarda i sanitari, che è legato a due principi molto importanti. L'Istituto Superiore di Sanità ha abbassato i livelli di protezione con una circolare del 14 di marzo, dicendo che il contatto, quindi l'assistenza rispetto ai pazienti Covid, poteva essere effettuata utilizzando le mascherine chirurgiche. Ma noi sappiamo perfettamente che non hanno funzione filtrante in fase espiratoria e non proteggono da inalazione di particelle aerosol. Per cui e non sono mai ritornati, rispetto a quell'indicazione, non sono mai tornati sui loro passi, cioè non si no, sono, visto che ogni giorno, a gran voce, cioè ogni giorno cambia il documento in cui dobbiamo girare, non faccio altro che stampare io documenti in cui devo dire sempre le stesse cose, che faccio i 50 metri da casa mia al mio studio, ogni giorno devo fare, ma rispetto a un'indicazione l'Istituto Superiore di Sanità di poter usare anche le mascherine, solo le mascherine chirurgiche, nei casi di Covid nessuno ha detto no, ci eravamo sbagliati, forse non bastano. Ma loro fanno riferimento ad una linea guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi tra l'altro è stata smentita anche da una serie di linee guida europee. La verità, la dobbiamo dire fino in fondo, è che mancavano le mascherine, perché in Italia non è possibile che una nazione così all'avanguardia, ci sia soltanto un'industria che produca mascherine nella nostra nazione, questo è una cosa assurda. Mancando le mascherine, cioè le mascherine intendo dire ovviamente tutto il corredo, no? Dai P3 a T2 e così via. Scusi, mentre parliamo, mi arriva la notizia adesso che a Napoli è morto un altro medico all'ospedale Cotugno di Napoli, Maurizio Gallarderisi, 65enne, medico, risultato positivo al coronavirus. A Napoli è morto professore di medicina interna del Policlinico Federico II. La notizia è delle 12:21, quindi è recente, capito? Quindi continua la catena, non è che si fermerà sicuramente. Prego, scusi. Allora, cosa succede? Se io utilizzo la mascherina chirurgica e assisto un paziente affetto da Covid, poi nell'attività di tutta la giornata io dimentico di avere la mascherina, perché in realtà ho un'errata sottostima della percezione del rischio, il primo aspetto. L'altro aspetto sono i tamponi. All'inizio c'erano, per esempio, io parlo della Campania, c'era solo il Cotugno che faceva la microbiologia e prendeva i tamponi da tutta la regione, un po' come succedeva allo Spallanzani. Quindi tempi di attesa lunghissimi, persone che stazionavano in pronto soccorso, sospetti Covid per tanto tempo, personale che non si sapeva chi lo doveva utilizzare e chi non lo doveva utilizzare. Alla fine la vera pandemia si è creata negli ambienti ospedalieri, esplosa in maniera incontrollata proprio per questi motivi qua. È una responsabilità gravissima del governo e dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo chiesto addirittura con un post ieri le dimissioni di questa commissione, perché è insopportabile quello che hanno fatto, e allora o tornano sui loro passi o altrimenti la cosa si perpetuerà e diventerà sempre più grave. Ed è un aspetto. Anche perché noi stiamo adesso vedendo gli effetti di procedure sbagliate di una quindicina di giorni fa, di 20 giorni fa. Certo, perché poi gli ospedali, alcuni sono fatti a monoblocco, altri sono fatti a più blocchi e così via, i percorsi interni sono stati definiti, però quando poi è arrivato il paziente con sospetto, in attesa del tampone e così via, sono saltati tutti gli schemi. E di conseguenza si trova un 8%, ma in alcune aziende ve lo posso assicurare anche il 20-30%, che dei casi affetti da Covid sono legati a personale infermieristico e medico. Quindi andrebbe ripensata e strutturato un piano d'emergenza che rivede anche i percorsi nell'interno dei luoghi di cura e di assistenza, per mettere i pazienti in una situazione di sicurezza anche rispetto a chi li cura. Abbiamo Fabio, la provincia di Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono... Velocemente, la sigla ci porta via. Lei è un medico? Sì, prego. No, non sono un medico, sono un familiare e faccio solo una considerazione a livello del tutto personale. Velocissima, ci stanno tagliando. Certo, se non fosse stato opportuno requisire, diciamo, i presidi e distribuirli a chi ne aveva più necessità. è quello che si dice già giorni, ma sembra che questa cosa sia stata impossibile. Taglio velocemente perché non voglio essere tagliato. Alla prossima.